sé yo, viene el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Me lo permettete di prendere una mattina di relax? Posso una mattina non pormi il problema dell'argomento del giorno, dell'approfondimento del tema? Devo documentarmi, devo studiare tanto, devo leggere, devo prepararmi, essere ore prima qui alla radio per essere all'altezza della situazione. Questa mattina, per un problema logistico ed ambulatorio, vorrei invece fare un argomento in totale leggerezza, che possa fare semplicemente abbandonandomi al filo del mio pensiero, senza dover necessariamente attingere a fonti certe o a certezze di cui non ho assolutamente voglia di ricercare le fonti. Beh, questa mattina vorrei parlare del pubblico della radio, del mio pubblico, del pubblico legato al programma che io conduco alla radio, perché è inutile nascondersi dietro falsi pudori o fingersi assolutamente privi di un profondo senso di autostima e vanagloria. Chi fa la radio è la radio di quel momento, la radio legata alla voce che sta davanti a un microfono e che viene trasmessa nell'istante in cui emette un pensiero trasformato in emissione vocale. Nessun medium penso sia talmente legato all'individualità la persona che lo rappresenta quanto la radio. Perché questo? Ma me lo sono domandato nei decenni che sto davanti a un microfono. Forse perché la radio, man mano che si acquisisce familiarità con il medium, con il mezzo, man mano che diventa il tuo habitat naturale, man mano che tu entri e apri la porta dello studio quando fino a un istante prima hai fatto tutt'altra cosa, e improvvisamente il mondo ti si chiude dietro quella porta vetrata, anche se continui a vederlo in trasparenza, e ti si apre un'altra dimensione, che è la dimensione del rapporto, la tua voce che rimbalza nelle tue orecchie, quindi nuovamente ritorna dentro di te, come per farti accorgere c'è qualcosa di vivo che tu non hai considerato nella tua persona, e l'effetto che questo rapporto totalmente autostimolante ha nelle persone che ti ascoltano. Tanto più uno riesce a far radio, riesce a farsi capire la radio, riesce a mettersi in gioco la radio, tanto più si astrae dal mondo e si racchiude in questo gioco con se stesso. In fondo, chiunque ascolti alla radio, un conduttore radiofonico ascolta una persona che guarda se stesso nello specchio e si racconta. E nella ragione del suo raccontarsi mostra anche i lati di se stesso che vorrebbe magari nella sua vita quotidiana e cosiddetta normale tenere nascosti. Questa del telefonini è una delle peggiori. Adesso ho tirato fuori lo smutandamento, copyright di Nasotis per parlare di ragazze un po' cretinotte, quindi che ci azzecca quanto sei stato smutandato qua. Ci trovi gusto perché trovi quattro deficienti che ridacchiano alle tue parole e ti fanno sentire grande. Ma Nicole, o cambi qualcosa, cambi mestiere. E questa è la giusta reazione che dà forza e conferma ad ogni conduttore radiofonico che in effetti è riuscito perlomeno, poi nel bene o nel male, nell'abisso o nella vertigine, è riuscito a dare qualcosa di se stesso al mezzo che lo ospita, che è appunto la radio. Questa è una classica ascoltatrice che telefona alla segreteria telefonica di Melog, è il mitologico 800 28 11 11, lo ricordate, nel periodo che piacevolmente mi intrattenevo alla mattina con voi, era il numero che davo, era l'unica occasione che avevate di feedback. 800 28 11 11 era il numero della segreteria telefonica. Oggi il programma in questa fascia oraria è più spostato nell'interazione diretta, abbiamo più tempo, quindi possiamo ascoltarvi mentre ci chiamate, mentre ci pensate, mentre volete partecipare a quello che diciamo. Ma esiste sempre una sorta di frangia dissidente del pubblico della radio, dissidente ma affezionatissima, che comunque ti ascolta tutti i giorni, che è la cosiddetta compagnia dell'odio. La compagnia dell'odio è stato il carburante più efficiente in anni di trasmissione radiofonica. Gli odiatori rappresentavano il filo rosso di tutte le riflessioni che abbiamo fatto per anni. Oggi gli odiatori purtroppo si sentono un po' relegati in una sorta di limbo, di Cayenne, di Guantanamo, di coloro che odiano. Perché? Perché non hanno più possibilità di esprimersi. Anche il più acerrimo odiatore, quando viene chiamato in diretta, diventa un agnellino, perché nel rapporto diretto è logico, chi fa di mestiere il parlare a un microfono ha modo di controllare o perlomeno tenere in uno stato di soggezione chi sta dall'altra parte. Quindi l'odiatore rimane come un rancoroso che di notte va con le bombolette a scrivere parolacce sui muri, padrone del suo spazio. Questa signora è una delle odiatrici più strenue e che amo di più del mio programma, perché mi ascolta con grande attenzione e ogni volta cerca di cogliere, come un inquisitore cercava nel corpo della strega il segno del patto col diavolo, il segno della patologia in quello che io dico. Nicoletti, riuscirò a cambiarti? Il fiato marcito, che schifo, gli sputazzi, così ti esprimi per un telefonino poggiato sul tavolo al ristorante, è solo maleducazione. Ma il fiato marcito l'avrai tu? Ma che secondo te tutti hanno il fiato marcito e gli sputazzi o gli sputacchi, come li hai chiamati tu? Ma da dove ti escono queste cose? Senti, sei morboso, fatti curare questo lato, è irritante. Io ti ascolto per vedere ogni mattina da quali argomenti cavi fuori le porcate tue. Allora, io mi verrebbe da pensare, se dessi un valore alla patologia, che non saprei se mi convenisse mai scambiare la mia patologia di essere morboso e quindi esprimere la mia presunta morbosità andando a cercare argomenti pruriginosi alla radio, che poi ci saranno anche, ma sono diluiti in un'infinità di altre cose, di alto profilo etico, di sincero approfondimento dei mali della società o dei beni della società o delle sublimi declinazioni del vivere quotidiano, o è maggiormente affetto alla patologia chi tutti i giorni morbosamente mi ascolta per cogliere le porcate che io dico, per vedere quanto io sia morboso. Cioè è come il guardone che dice: zozzi, cosa fate, guardate, con il binocolo in mano e con il cineproiettore, per vedersi poi con calma queste cose. Io non ce l'ho con questa signora, ma vorrei in qualche maniera analizzare il meccanismo. Cos'è che ancora può dar fastidio alla pudibonda tenuta delle persone dopo la sfilata quotidiana e ossessiva dei trans, o delle trans che vediamo in televisione? Sere fa vedevo la mamma del trans che adesso, visto che è morto, parlo della Brendona, va chiamato al maschile, quindi ho visto un'ora di lunghissimo interrogatorio di una signora brasiliana che parlava doppiata, naturalmente parlava del suo bambino, e il bambino altro non era che la Brendona, che è il frutto proibito di tutti gli immaginari erotici e degli italiani ben nascosti nelle pieghe più riposte della loro apparente rispettabilità. Cos'è che possa dar fastidio? Qual è stato nella fattispecie l'argomento dato fastidio? Una ascoltatrice che candidamente, con una complicità guascone e goliardica, che ho messo vari anni per conquistarmi il mio pubblico, parlando del telefonino, parlando di questa tecnologia malandrina, ha ammesso, ma che è un termine metaforico che non corrisponde a un reale abbassamento del proprio baluardo delle zone più intime e riposte, ha detto che il telefonino la smutandava. E questa ascoltatrice, che divide con me l'anatema della signora e probabilmente dividerà il rogo, l'ho richiamata questa mattina. Francesca, buongiorno. Buongiorno. Francesca, noi siamo uniti nella medesima colpa, quella di aver ammesso che un oggetto appartenente al mondo della tecnologia può colpire così profondamente i nostri sensi, la nostra emotività, da portarci allo smutandamento. Cosa trova di pericolosamente deviante in questa frase? Nella frase che ha detto lei, che noi siamo uniti in questa... Nel termine smutandarsi, che abbiamo usato istantaneamente e in maniera complice, ma non so, assolutamente legata da nessuna pratica concreta. No, lo smutandamento è un sinonimo di un abbassamento delle nostre barriere emotive nel momento in cui utilizziamo, come dicevo anche l'altro giorno, il telefonino come un nostro apparato emozionale. Ecco, secondo lei perché a questa signora, che poi rappresenta uno zoccolo duro del pubblico, sono quelli che poi scrivono ai direttori, scrivono agli amministratori delegati, scrivono agli editori e chiedono le teste, chiedono il rogo, chiedono la gogna, chiedono la Vergine Norimberga, perché in un momento in cui la soglia comune del pudore si è così abbassata da poter vedere prostitute e transessuali che si prostituiscono. Non lo dico con senso di indice vergogna, semplicemente perché così è un dato di fatto, che turbano la quiete di un'infinità di famiglie italiane, protagonisti assoluti della scena televisiva. Una signora che goliardicamente dice che il telefonino la smutanda, cioè gli fa abbassare le difese emotive, crea ancora così un così rigoroso senso di reazione. Beh, perché forse, non so, abbiamo colpito una corda che anche questa signora è ancora sensibile, non vuole rendersi conto che ci sono anche stati emozionali che passano attraverso degli apparati elettronici, invidia, non lo so, assuefamento, assuefazione anzi a delle immagini che sono in TV scandalose. Non... Anche perché probabilmente la dichiarazione priva di ogni senso di peccato, di senso di colpa, di una signora che alla radio parla tranquillamente delle proprie emozioni e delle proprie pulsioni, probabilmente è qualcosa che sconcerta e mette in disequilibrio e in precarietà tutte le convinzioni rispetto alla tenuta morale esteriore di una gran parte del pubblico. Penso di sì, perché stavamo parlando appunto di emozioni. È come io penso che una persona, quando si parla liberamente di emozione, diciamo non in una cerchia ristretta, è un po', credo che si possa creare lo stesso fastidio o comunque senso di disagio che si ha nei confronti quando si vedono piangere delle persone. Ecco, lei ha detto una cosa molto giusta, emozioni, perché io penso che la dimostrazione palese, la meccanicità degli atti sessuali, degli accoppiamenti e via dicendo, ormai non scuote più il livello emozionale, quindi può essere rappresentata come se fosse un mercato di bassa macelleria. Parlare ancora di emozione è qualcosa che sconvolge, perché l'emozione va contenuta, l'emozione va controllata, l'emozione soprattutto colpisce ovunque, chiunque, senza distinzione di censo, di genere o di professione. Ciao Nicoletti, io ti ascolto spesso e volentieri. E ti ho visto anche le fotografie sul blog di Radio 24. Mi piacerebbe fare sesso con te. Mi piacerebbe prenderti e darti tante sculacciate. Vedrai che dopo ti farei io sentire veramente importante. Ti prego, io sono tranquillo, sono un camionista. Ti ascolto sempre, mi fai compagnia e mi fai anche arrapare. Per carità, non prenderla male, eh. Oggi non si capisce un cazzo in giro. No, no, non la prendo affatto male, la prendo come una delle tante reazioni quando uno va a toccare nel fondo appunto le emozioni delle persone, le emozioni partono incontrollate. Non voglio scendere a battute triviali tipo d'ora in poi mi guarderò le spalle quando esco da questo studio. No, sto tranquillissimo e penso che anche il nostro camionista abbia soltanto voluto provocarmi, voluto applicare alla mia persona ciò che rappresenta la voce che sente dall'abitacolo del suo camion, quella che è la regola di ogni principio maschile di sopraffazione del proprio rivale, della persona che considera un invasore del proprio terreno. Il sopruso fisico rappresenta la vera vittoria su ogni nemico, il vero annientamento di ogni nemico. L'hanno sempre fatto gli eserciti vincitori, l'hanno sempre fatto coloro che volevano appunto mortificare, umiliare o rendere totalmente inattivo ogni avversario e ogni rivale al loro campo di azione. Oh, se guarda bene, si sta bene. Che dopo devi fare entrata e tutte le donne, vedi che fisico per quell'uomo. Allora tu ti senti al centro dell'attenzione, che vedi con la vena che si vede, tutto bello depilato, perché la depilazione è la base principale. Questa è una forma casual, col cappello e tante volte con gli occhiali, è tutta scena, diciamo, no? Io faccio sto movimento e lei mi butta l'occhio sul tricipite, come ti guarda con che schifo d'uomo sto. A me questo mi gratifica. In un'altra puntata noi sollevammo un modello di ipermascolinità esteriore anabolizzata, era quello di Davide, lo ricordate, il cultore della palestra che aveva usato anche lui la tecnologia per pubblicizzare la propria preponderante virilità. Gestisce una palestra, quindi fa vedere che gli uomini si dividono in uomini veri, come appunto lui Davide, che compiace, stimola, accresce e glorifica l'ipertrofia del proprio apparato muscolare, e gli omuncoli, i poveri uomini che naturalmente non frequentano la sua palestra. E se in sotto dorsale, sotto alite pipistrello, ma non lo vedi, alla persona in cui alleno. Non voglio vedervi mangiare male. I miei veri amici sono queste, sono le mani, perché questi che mi danno la forza di sopravvivere, di campare e di lavorare. La palestra è una cosa di vita, è il sangue che mi scorre nelle vene. Senza palestra è come che sto senza una bella donna. E paradossalmente, avendo evocato il tema del corpo, il corpo dando comunque delle sensazioni concrete e reali, anche quando viene artificialmente innanzitutto stimolato, ricostruito, immaginato, riprogettato attraverso l'accanimento palestrato di questo signore, o attraverso anche altri tipi di stimolazioni, dà probabilmente le sensazioni. Quindi al nostro numero della segreteria telefonica 800 28 11 11 arrivò subito un'immediata reazione anche a quello che noi dicemmo sul corpo maschile. Ecco, a proposito del fisico del corpo maschile, io vorrei ricordare a tutti i maschietti che se non avessero la pancia ci farebbero toccare più nirvana a letto. È un problema che le nostre ascoltatrici spesso mi sottopongono, in questo divario, in questo senso di distanza nei rapporti interpersonali fra persone di sesso diverso, l'ispessimento dello strato di grasso della pancia crea naturalmente più distanza, e creando più distanza diminuisce la possibilità di godere appieno di questo contatto. Volevo semplicemente dire che i canoni sulla bellezza sono a questo punto completamente stravolti. Non è bello ciò che è bello, ma è bello il portafoglio. Le signore sono dedicate più a vedere i portafogli che non l'aspetto fisico delle persone. Federica, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Quello del corpo maschile è un altro tema che mi è stato rinfacciato aver toccato. Il corpo maschile non si nomina nemmeno, non si parla. Gli uomini sì hanno un corpo, ma è bene non parlarle. Se parli di corpo maschile puoi parlarne soltanto a livello di perfezione androginica, di un'estetica che non appartiene più all'uomo. Ho fatto varie trasmissioni di donne che si lamentavano di uomini schifosi, pelosi, panzuti e non curati, o altrettante donne che erano affascinate con la sorta di ferino fuori che trapelava dagli uomini. Lei come la pensa a proposito? Ma sicuramente mi schiero con le seconde, anche se è un vero schieramento perdutamente, uso la parola perdutamente con il senso della deriva che lei spesso dà a questa parola, no? Quindi perdutamente innamorata del corpo maschile, grandissima invenzione e creatura meravigliosa. Poi chiaro, non parlo di tutti, ma l'uomo è proprio una bella cosa, voglio dire. No, ne sono convintissimo, mi guardo sempre con grande orgoglio. Noi abbiamo però, diciamo, una grande giustificazione. Capita noi uomini di essere apprezzati, accade soprattutto quando si comincia a invecchiare, proprio per i segni che il tempo lascia sul proprio corpo. Invece per voi donne, ahimè, questi segni sono quasi delle stigmate dolorose di un passaggio che non vorreste fare. Noi siamo fortunati da questo punto di vista. Non so dirlo se siete fortunati o se siamo noi che siamo sfortunate. È un dato di fatto che magari culturalmente ci stiamo muovendo in questa direzione, nel senso che l'uomo di una certa età ha un certo fascino, e io posso confermarlo, pur considerando magari ragazzi un po' più giovani anche di me, molto carini, quelli che sono belli sono proprio belli, voglio dire. E di fatto quello che rileviamo è che noi donne, io sono tra le prime, voglio dire, tutte le mattine ci ristrutturiamo per uscire ad essere carine e piacenti. Non saprei dire più di questo. Diciamo che voi siete costrette sempre a giustificare con l'innamoramento, con la passione, quello che è un carnale e solido apprezzamento anche per la macchina carnale dell'uomo. Ma non mi sento di giustificare. Quello che riconosco di me è che c'è una parte che può essere più istintuale, che si muove su quelli che possono essere i parametri un pochino più fisici, erotici di un uomo, ma che sono sicuramente mediati da quello che può essere la parte culturale, insomma. Grazie mille, Federica. Melog 2.0. Riprendiamo questa puntata dedicata all'analisi del pubblico che ci arriva attraverso varie situazioni, varie possibilità di entrata. Una di quelle è la telefonata in diretta 800 28 11 11, la segreteria telefonica invece, dove molti lasciano dei messaggi, molte volte li ascoltiamo dopo settimane, dopo giorni, o altre volte ne facciamo materia palpitante il giorno dopo stesso. Ma essendo ormai una trasmissione monografica per come è strutturata, molte volte il tema del giorno fa sì che il messaggio del giorno prima non abbia più senso, quindi li mettiamo da parte e poi, come facciamo questa mattina, ve li riproponiamo riproponendo quelli che erano i temi che hanno suscitato quel tipo di reazione. In particolare ci fu una puntata che feci i primi giorni di novembre in cui mi telefonò un ascoltatore. Ricordo che il tema di questa mattina è molto legato nel rapporto interpersonale, nella relazione profonda, nell'erotismo, nel significato di rivalutazione della carnalità, non come detestabile categoria ferina e belluina dell'essere umano che si eleva dai suoi istinti, ma come piacevole considerazione che abbiamo una parte carnale, che conoscerla, parlarne, portarla in superficie fa sì che noi conosciamo meglio noi stessi. Questo non vuol dire, come dicono molte ascoltatrici, ascoltatori, che protestano vivamente, vivacemente per la mia libertà di linguaggio, per il mio fare salaci doppi sensi. Questo è dovuto a una fattispecie ambientale che capirete dopo aver ascoltato la riproposizione della puntata incriminata. Ivano. Io volevo parlare della lussuria. Parla del tuo vizio, ma velocemente, devo chiudere la trasmissione. Condensalo. È un vizio che, niente, ho praticato molto e sto ancora praticando. Lavoro molto nei locali notturni, discoteche e quant'altro. E quindi? E mi capita di incontrare molte donne. E mi capita di farci molto spesso sesso, anche con più di una. Sì, ma questo vale a raccontare a qualcun altro. Guarda, la palloneria è un vizio che non viene contemplato nell'elenco dei vizi capitali, perché, come dicono a Perugia, che è un detto che è alla radice di tutto il sapere dell'umanità, chi il fa nel dice, chi il dice in campa. Questa frase, che probabilmente ha poco senso per chi non è vissuto, nato come me, alle latitudini precise delimitate dal lago Trasimeno, dai monti Sibillini e dall'autostrada 1 che porta verso Roma, non può aver capito in fondo. Chi il fa nel dice, chi il dice in campa, è come dire, rispetto alla diffusa, piacevole e multipla pratica sessuale, normalmente chi con metodo e mestiere si applica a questa attività normalmente non parla, perché il fatto di raccontarlo in giro già precluderebbe in partenza la possibilità di farlo in maniera diffusa. Richiede molta discrezione, richiede molto savoir-faire, richiede molto aplomb. Questa è una frase tipica del contadino umbro della valle del Trasimeno, di fronte all'amico di Zappa, il collega di Vanga e di Aratro, che si vanta di essersi rovesciato la contadina di turno nel pagliaio, e come vedete attingo a ricordi molto lontani. Dice: ma chi il fa nel dice, chi il dice in campo? Perché per la mietitura, per la vendemmia, per le grandi opere che accomunavano tutte le famiglie dei coloni, quindi si mischiavano un po' persone che erano normalmente abituate a passare la loro giornata immersi in un grande stanzone, si dormiva tutti assieme, molte volte anche assieme agli animali, significava una grande varietà, era come uscire dal proprio habitat casalingo, quindi mischiandosi le famiglie dei contadini, un po' ebri, un po' stanchi, un po' affaticati per la lunga giornata di lavoro, capitava che contadini e contadine si mischiassero. Non considero discriminatorio questi miei ricordi fanciulleschi, ma tenetene conto, è un'infanzia nata comunque a questi ritmi. È una terra in cui lo spirito fescennino, quindi dedicato all'aspetto salace, al doppio senso, era molto stimolato. Veniamo da una terra in cui era forte la presenza etrusca. Se guardate un museo di arte etrusca, vedrete quanto erano facili gli etruschi a dimostrare l'orgoglio della virilità e l'orgoglio della piacevolezza dell'incontro fra sessi nelle loro rappresentazioni anche funebri, nelle urne cinerarie etrusche, nei monumenti etruschi. Sono sempre sorridenti, sono uomini e donne abbracciati, seduti sul loro crepuscolo, sul loro sepolcro, che sorridono e quasi ammiccano, e quasi gli piace loro scherzare. E poi, andando avanti, c'è stato tutto uno spirito laico mischiato fortemente con una forte presenza papalina, che ha creato l'acuirsi di questo spirito. Ricordo la figura del frate cercatore che veniva di campagna in campagna per fare la questo, erano degli elementi centrali di tutte le battute salaci, che a sua volta era una riedizione, una sovrapposizione in chiave cristiana dell'antico dio Priapo. Era il dio indecente, veniva messo a custode proprio dei campi e del raccolto, che impediva e atterriva il probabile ladro, dicendo: sta attento, se tu passi questo recinto e provi a prendere le mele di questo albero, delle tue mele saprò io che uso fare. L'ultima telefonata di quello che lavora nel mondo della notte, che dice di andare con più donne anche contemporaneamente, lo ha preso in giro la persona che parlava alla radio quando ha buttato giù la chiamata. Ma le posso garantire che io faccio la ballerina in locali notturni e non lap dance, ma normale, semplice cubista. Le posso garantire che è probabilmente vero che va con più di una donna, considerando le e le puttane che oggi come oggi girano nel mondo. Forse lei non è molto informato di questo. La prego di informarsi meglio. Sì, sono passati tanti anni da quando frequentavo le aie dei contadini e la mia memoria è ferma al fattore che si approfitta delle mogli dei mezzadri, quindi evidentemente ho perso molte battute. Questa signora giustamente ha messo il dito nella piaga, non si inganna, non si frega al pubblico della radio, è vero, il mio è stato un gesto di stizza, un gesto di forte, profonda e malissimamente celata invidia nei confronti del signore che probabilmente raccontava una sua esperienza reale, ma visto che l'informazione, la prima vocazione di chi sta davanti a un microfono, visto che io ho colpevolmente creato una grossa lacuna nel patrimonio informativo dei miei ascoltatori riguardo agli accoppiamenti clandestini, palesi, multipli e specifici che avvengono nelle discoteche italiane, io questa mattina ho chiamato Ambra. Ambra, buongiorno. Buongiorno. Spero di non doverla bippare anche in diretta, perché potrei soltanto fare dei rumori orali così tipo... ma non potrei fare di più. Quindi, contenendo se possibile il linguaggio, lei che è ballerina, grafica e regina della notte, riporti l'informazione nella sua giusta dimensione. Quindi quel signore, con il quale mi scuso naturalmente, che io ho bloccato con la mia frase perugina, diceva il vero secondo lei? Sì, diceva il vero, perché con i miei occhi ho visto cose in camerini. Che voi umani non potete nemmeno immaginare. Che voi umani non potete nemmeno... No, veramente, io ho fatto 6 anni, ho girato anche un po' l'Italia per discoteche, giravo anche con una ragazza che faceva la DJ. Ho visto donne DJ proprio perché volevano fare la loro strada, insomma, in quell'ambiente, cercare di arrancare, no? Perciò arrancando, dandola anche via. Comunque, anche se non proprio darla via, fare cose dentro camerini, io entro e vedo e dico: vabbè, scusate, boh. Vabbè, chiudo, questo dico, che lei, che questo mercimonio carnale che lei descrive così piacevolmente, non creda che avvenga soltanto nei locali notturni. Io quello che volevo capire è la specifica di ciò che avviene in questi luoghi. Potrei raccontare nei miei lunghi anni di esperienza professionale analoghi episodi che accadono nelle redazioni dei giornali, nei grandi palazzi delle televisioni. Avviene un po' comunque laddove ci siano uomini e donne disponibili a considerare l'aspetto carnale come moneta di scambio, è solo questione di trovare il posto giusto e il momento giusto. Qual è lo specifico invece in un locale notturno? Vabbè, il bancone del bar, il camerino, sicuramente, poi anche a fine serata nella discoteca stessa, cioè all'interno della discoteca stessa, quando tutti vanno via e la discoteca chiude, rimane una persona con magari il capo della discoteca. Guarda, io potrei raccontare gli episodi mai passati ufficialmente alla storia di capi del personale di grandi aziende pubbliche beccati dalla signora delle pulizie con la propria segretaria in straordinario non lecito. Quindi avviene un po' in qualunque luogo di lavoro che il prolungamento dell'attività professionale, quando avviene in ambiente promiscuo fra persone con un minimo di potenzialità di attrattiva, accade questo. Ancora non mi ha risposto nello specifico. Il DJ o colui che è il re della serata, poi una sorta di ius prime noctis rispetto a tutte le donne disponibili che hanno partecipato al suo spettacolo, alla sua serata. Esatto, ma non perché io non io l'ho detto perché ho visto e beh, però non lo faccio perché io come le altre persone che hanno chiamato sono molto pudica, perciò è un po' difficile. Quindi lei è l'unica me. Persona che si è salvata da questa sorta di forche caudine? No, ho avuto anch'io le mie esperienze, ma se ci vado con uno che mi piace, non perché, e magari sono due persone su mille persone abbastanza rigorose, infatti non sono diventata né famosa né niente, ho avuto anche proposte da gente un po' grande, cioè dico nei settori alti. Grande nel senso grande gente... di età o grande come disponibilità economica? No, di livello proprio famosi o comunque gente che ti può far carriera, gente che ho visto, ragazze che erano con me, che sono passate a provini, a cose, perché io avevo detto di no, dunque presumibilmente passa la seconda passata, di turno. Ha detto di sì, cioè capisci? Allora, io però le ho viste con i miei occhi, volevo solo precisare il fatto che questo signore probabilmente se fa lavora nelle discoteche e lavora in una discoteca soprattutto in un posto, un paesello dove la discoteca è vista come una cosa, come io abito in un paesello, io non sono di una città grande, perciò quando c'è una discoteca dove vanno tantissime persone è vista come un dio, no, quella discoteca, e allora anche la persona che va che lavora lì dentro è vista come un dio, no? E tutte, comunque è vero che si vogliono andare e ci vanno, e le ho viste, ecco tutto qui. Io per quello che ho fatto io sono stata io con delle persone di magari questo di questi, in questi posti, però una volta è capitato due, mentre ho visto ragazze che lo fanno continuamente. Ecco, quando è capitato, qual è stata la molla che ha fatto abbandonare la sua pudicizia per concedersi sul camerino, sotto il bancone? Adesso non so bene esattamente dove possa accadere una cosa del genere. Che la persona in questione mi faceva molto sesso, cioè mi ispirava sesso, cioè soltanto lo sguardo e l'ammiccamento che aveva nei miei confronti ha scatenato in me una voglia animalesca, tra virgolette, che non è per niente spirituale dal punto di, anche perché è una discoteca, però proprio avevo voglia di avere lui, e questa cosa poi si è scatenata anche purtroppo in una cosa che volevo lui sempre, dunque, e quindi sarei innamorata alla fine, questo era il problema. Sì, perché alla fine mi piaceva tanto. Perché lei è una brava ragazza, quindi non è che si concede così una botta e via e poi se lo dimentica, rimane colpita nel profondo, questo vorrebbe dirmi. Sì, esatto, cioè io sono stata veramente colpita prima carnalmente con questo sguardo profondo di questa persona che poi faceva il DJ, dunque io ballerina, DJ, poi dopo anche un'intesa sessuale molto forte tra noi due, perché eravamo affini a... nel farlo, molto sensuali tutti e due, io amo la sensualità. E quindi lui, diciamo, la spada di fuoco ha acceso una passione anche spirituale che in realtà poi si è dovuta rassegnare e abbandonare, perché immagino che il giorno dopo sarà scelta la cubista di turno. Esattamente. Lo so, ma la vita è crudele e soprattutto le brave ragazze come lei rimangono sempre schiave di questi uomini che una volta ottenuto il loro porco piacere in realtà vi lasciano e vi abbandonano, e quindi per voi si apre una strada tristissima. Melog 2.0. Facciamo un attimo uno stop perché stiamo andando troppo oltre, vedo già la fronte imperlarsi di sudore delle persone che mi ascoltano, soprattutto già temo di andare ad ascoltare la segreteria telefonica con i messaggi che arriveranno dopo questa trasmissione, quindi vorrei fermarmi sul liminare dell'esperienza sensuale e struggente la nostra cubista, però mi fa piacere pensare che c'è anche un pubblico di cubiste che di giorno, nonostante il fatto che magari vanno a letto alle 4 di mattina, che consumino selvaggi amplessi e con i DJ sotto i banconi e sotto le strumentazioni della console, riescono comunque alle 10 di mattina a avere tempo, voglia, disponibilità e piacevolezza nell'ascoltare questa trasmissione radiofonica. Dicevo, il passo che vorrei fare invece è verso una dimensione, se vogliamo, simile rispetto a quello di cui stiamo parlando, ma lievemente meno legata agli aspetti corporei, che è quella della fuga. La fuga è è uno degli elementi fondamentali di tutta la radio che mi piace fare. La radio stessa è un mezzo di fuga, una fuga per me che la faccio. Dico, chiudo una porta alle mie spalle e scompare il mondo. Mi piacerebbe che scomparisse in parte anche il mondo tedioso, sensibile, quotidiano e monotono rispetto alle persone che mi ascoltano. Volesse una fessura in cui infilarsi per il tempo in cui dura questa trasmissione e poi tornare naturalmente, piacevolmente, serenamente, anche con rassegnazione, al proprio quotidiano. Dedicai un giorno una puntata a quello che è il desiderio profondo di molti di noi, che mai, o perlomeno in piccola percentuale, si riesce veramente poi a portare in atto, che è quello di mollare tutto. Sono Piero, io ho smesso di lavorare definitivamente, ho mollato tutto 2 anni fa, sono partito in barca a vela, ho quasi finito un giro del mondo in barca e vi assicuro non c'è nulla di più bello al mondo. Dopo la puntata dedicata a una associazione, anzi un signore che ha pensato di mettere su in internet servizio molto particolare, aiutare le persone a mollare realmente tutto. Basta di pensare, vorrei aprire un bar in un'isola deserta, vorrei andarmene a Filicudi tutta la vita, che bello quanto si sta bene, la Sardegna è la California dell'Italia, perché non andiamo a vivere qui, oppure in quel paesino vivrei con pochissimi soldi invece che affannarsi, tutti lo diciamo con gli amici con cui ci scambiamo il calcio di prosecco secco la sera sulla bella terrazza, ma poi non lo facciamo mai, perché noi siamo assuefatti al nostro veleno, il nostro veleno ci dà forza, la nostra adrenalina è la vita schifosa che facciamo ogni giorno, di cui ci lamentiamo, ma poi in realtà non riusciamo assolutamente a farne a meno. Però questo signore fornisce per chi voglia strumenti reali, concreti, burocratici, economici per farlo, chi si vende casa, dove si prende casa, che documenti bisogna fare, quali sono i paesi in cui si può andare. E fra le tante telefonate che hanno seguito in segreteria telefonica questa puntata, c'erano molti che facevano una scelta radicale talmente bella, talmente raffinata da sembrare quasi fittizia, ma in realtà era così. Molti che lasciano il mondo per andare in barca, si abbandona la terraferma e si parte verso una deriva che non ha più un orizzonte, non ha più una meta, non ha più uno scopo, un po' come Ulisse, ci si lascia prendere dal canto delle sirene. Ma in realtà per molte altre persone è importante non tanto l'obiettivo, non tanto l'orizzonte in cui perdersi, ma la terra ferma che ci si lascia alle spalle. E questo è un po' il caso dell'ascoltatore Paolo che ho al telefono. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Lei è una delle tante persone che, come tipologia, che ci hanno chiamato, che ricoprivano in aziende ruoli di top management, ruoli molto importanti, che a un certo punto si sono resi conto che la vita che portavano avanti ogni giorno era sì l'adrenalina alla loro felicità, era sì lo scopo di ogni loro istante di vita, ma era anche il veleno che stava minando la loro salute. Esatto, sì, io ero fino a pochi mesi fa ai vertici di un'azienda, ho fatto carriera abbastanza in fretta, 33-34 anni, e mi sono reso conto che quello che cercavo era la libertà di decidere della mia vita, e in quel modo non ero padrone. C'erano i soldi, c'era i viaggi, c'erano un sacco di cose, ma dove non ero padrone, perlomeno non mi piaceva più. Molte volte sono dei particolari che ci si ricorda solo fra compagni di avventura o di sventura. Chi è passato per queste cose sa cosa significa avere una vita in cui non bisogna pensare a nulla dal punto di vista logistico. C'è sempre una segretaria che ti fa trovare i biglietti pronti, la prenotazione pronta, una macchina con l'autista che ti viene a prendere sotto casa. E questi sono grandi motivi di invidia, tutti invidiano di un certo tipo di vita che in parte ho fatto anche durante la mia frastagliata esistenza, e dico di non rimpiangere. Ti invidiano queste che sono le banali utility che ti vengono date, naturalmente per spremerti l'anima fino all'ultima goccia. A lei mancano tutte queste cose? Ma no, non mi mancano, ovviamente quando ti devi organizzare tutto da solo è un po' più complicato, ma non è impossibile. Non mancano perché il prezzo che ne pagavo, perlomeno per me, era più alto di quello che secondo me valevano. Esattamente qual era il prezzo? Nel senso, qual era poi il risultato? Cosa si dava in cambio di queste facilitazioni? Una vita comodista, non bisognava più fare regali a nessuno, c'era chi li faceva per te, non bisognava scrivere lettere, gli appuntamenti c'era te li prendeva, ti andavano a prendere le analisi, anzi molte volte ti venivi al dottore a fare prelievi direttamente in ufficio. Sembrava che tutto il mondo stesse ai tuoi piedi, ma in cambio cosa si dava? Per esempio essere da lontani per settimane dalle persone che ami e renderti conto che nella tua scala di valori vengono prima loro di altre cose, seppur importanti, oppure semplicemente vedere che quello che prima amavi, cioè viaggiare, muoverti, stare con gli altri, non lo ami più, ma perché ha preso un significato completamente diverso, e poi tante altre piccole cose, adesso identificarle tutte in un istante. Ecco, proprio adesso che siamo in chiusura, cosa fa lei adesso? Tutto questo in cambio di cosa l'ho abbandonato? Beh, io mi sono trasferito, mi sto trasferendo da Milano a Roma con la mia compagna, avremo una bambina a breve, ho smesso di fare direttore commerciale, ricominciando a fare rappresentante, che è il lavoro che più mi piace, mi sono reso conto che economicamente non vai a star male e che hai un livello di vita decisamente superiore di quello che puoi fare a Milano, magari coi gradi e i galloni. Grazie, buongiorno. Questa trasmissione dedicata ai piaceri e alle concupiscenze mi sembra terminata nella maniera migliore, perché la mia testa non sia segata da oggi in poi. Melog 2.0